Buonasera, buonasera amici, buonasera. Grazie, ma come vi voglio bene. Via, via. Oh, bastardo, silenzio. Bastardo, silenzio. Ora ti canto una canzoncina. Ti canto una canzoncina, la vuoi cantare? Lo conosci quel cartone di Remy? Bravo, dolce Remy, metti la mano qui e sentirai la scimmietta con un bip. Comunque, buonasera, benvenuti al programma più bello del mondo, perché ci sono io. E concedetemi di dirvi, e mica è una pulpetta, eh! Che bella gente, il mio pubblico, che bello! L'uomo sembra, ma è bello, su 40 anni che trovi la televisione, ma quando ti tengo davanti ti posso fare una domanda! Certo, certo, certo. Dicimi tu! Raffaella Carrà, un po' l'hanno toccato assieme! E poi, perché ti sei fatta bruna quando eri bionda? Era un femminone! Utuca tuca vu balla. Eh sì, utuca tuca, che bello! E Mari, mi enzimi mia no! Eh sì, sì, ma guardiamo, donna! Allora comincia a ti votare, chiuda l'occhio e comincia a cantare. Mi piace! Mi piace! Poi va mandata su di forum! Veramente lei è andata a fanculo e vi ha detto che la pubblicità è un pubblico, i vecchiari. Oh, me l'avete mannata! Semmai mannati la De Maria De Filippi! Cacchina, pure il coniglio si piglia! Beh, ora introduciamo il nostro ospite. Un bel macio, anzi, un bel salsicchiopone. Anzi, una star di Hollywood. Acica dolce, mi metto la mano qui. Star di Hollywood, che lo branzisato di Sylvester Stallone. Ciao Italia, I love Italia pizza, mandolino, Ferrari, grande puttanone, come questo bello mennone che sei. Benvenuta Sylvester, metti le mani addosso che ti picchia. Benvenuta a lei, grande, ma un dracone, dove è la posta? Yeah, the post, the cazzo, the post, mennone. Scusi, ma lei chi è? Ne sa facci cazzo. Parla. La inglese mi piace a quando parlo italiano. Allora, dice ci ha chiesto che signor Barbara Dusso non che la gatta ammuffita da De Filippi. Bene, Silvestre, come stai? Yeah, I'm very good, but I want man affangles the copions of the mad, the val officers, grand suck very well, very fort, pets the mad, fort says, yeah, vaffangles. Bene, è felice di essere qui con te e il meraviglioso pubblico. Yeah, keep public see mad, but if you don't want pay a me, I'm pagando me. B, the room with the cools, I put tons, cools out, very fine, cool, like them, well, that's a firm, that's the mud. Che non cerca scippe che tenga, per lui vale l'affetto della gente. Che tenerezza. Diciamolo, Sylvester, che sei venuto qui gratuitamente solo a titolo d'amicizia e che siamo amici della vita. What? What? Dici Barbara, account what pagano. Yeah, come no? Chi cazzo ti conosce? Oi, zucchero, sconzi, atras. Ma su me, non do the world of Lazarus. Prepare sa a pila, still cash, capito? You know, where Italia, love Italia, pizza, ma delle puttane, man. Ha detto che si dolce zuccherosa con un pantolo panguani alla vigilia di Natale. Che dolcezza, ma, cari amici. Mi stai sciogliendo come una scerubetta a maggio. Silvestre, tu sei uno che ha avuto tante mogli, no? Yeah, grande, mo che cazzo vuoi, yeah. E anche tu ci hai dato uno sciando figli a destra e a manca, no? Not mo che giro lo fa, yes, it's a big cowbottons, but I miss veramente come una rospa, very. Dice che lei vuole campare per 100 anni. E certo, chi non lo vuole? And you fat the cats to a bafangu. Ma non è di questo che vogliamo parlare. Ti ricordi Silvestre? Ti ricordi a Paola? La sagra della Gaddrina del 72, dove prendesti un compenso senza fattura. Ora c'è qui in studio una bella sorpresina. Quella fattura è qui. Oh, yeah, yeah, you are grand puttan zuckle, spooky naras, and very two minder cool senza vaseletti faccio cacca sangue per il cigliuri, yeah, very good, very good. Infatti, per la sua grande professionalità, quando non dice delle informazioni, palesemente contraddittorie fra di loro. Oh, gentile, ma facciamo entrare la patto. Signor Stallone! Oh yeah, The Yellow Flame, it's a new film, yeah. Well, the best Italian to get from the job, yeah, it's not from cool. Grazie. Ma non avermi uscito per seguire in caserma perché hai messo il fisco, ragazzi, due manette, segui la fattura, come cazzo hai parlato? Oh, ma che cazzo fat? Help me! Help the manets! What is the manets? Che bello, a... che bello! Help abbiamo me. Fatto anche help del bene help oggi! Me. Help me! Barbara Doors! Sì? Gulakid è morto! Ho delle palesi difficoltà escatologiche a tradurre la suddetta frase. L'avevo tradotta mo? Bene, e dopo questo lieto fine, dopo la pausa, parleremo di come farsi il bidet col detergente... intimo. La canestra! Io che ti posso dare?